per il condicio a correre in difesa. Arriva il modello salto a terra rotolando, nel cerchio d'obiettivo schivando gli imprevisti, vado si rifondo in questo percorso da secoli.